stiamo parlando, parlando, parlando. Ma quando è che stiamo parlando? Come se non fosse successo niente. Adesso dici cosa vuoi di più? La fama, la ricchezza, la nazione e la TV. Fa legge a tuo favore, utilizzami il tuo potere, nel nome del Signore oppure in quello del dovere. Adesso dici cosa vuoi di più? La fama, la ricchezza, la nazione e la TV. Fa legge a tuo favore, utilizzami il tuo potere, nel nome del Signore oppure in quello del dovere. Questa è l'Italia e dimmi chi ha il potere. Tira una brutta aria, non ve ne siete accorti? Tell me what's the power, non ce la danno a bere se mafia, state chiesa, restano gli unici assolti. Questa è l'Italia e dimmi chi ha il potere. Tira una brutta aria, qui siamo ai ferri corti. Tell me what's the power, 22° quartiere, mafia, state chiesa, restano gli unici assolti. Mi chiamo Novedane, cumano, tu sei lontano. Ma canuscio sape che ma va a baciare in mano. Voglio piccate scusse, gente che per me fa accuse, che sa quanto un coppi tussi. Ammazzare un cristiano, gli scappo rame e l'uscio, come a tutte pezze sciuste, tasta ambiente, male fruscoli, se pitti si rispetti. E non mi puce sventurato, picchio un nete, mette conto che si nudro, mascato con niente. Ora voglio tutte do scienziate, non mi mucco, ma nell'aria ponte sciate, come meglio maggiasciatemi. Chiama uno culto, materanno a bacco sciutto, tutti si calani braghi, ti faccio caputi capi. Soldati, politici, amici asciutti e piccioli, e manno mi ci dici che a fine mese si esigi. Io non ne conto spicci, ma voglio che te spicci. Che una parola spicci, che picchi non voglio un bici. Siamo noi che decidiamo, qua va a crepare, qua va a picchiare gli appalti. E con il resto morto di fame, chi se ne deve andare a Roma? E con il resto con culo per te vanno a saltare con me. Con contraddici l'assenci di Ciuparcino, poi ci finisci come figli Don Masino. Il giusto spaccia come onesto contadino, ma ne cumanno e mazzari a faccone borsellino. Adesso dici cosa vuoi di più? La fama, la ricchezza, la nazione e la TV. Fa legge a tuo favore, utilizzami il tuo potere, nel nome del Signore oppure in quello del dovere. Adesso dici cosa vuoi di più? La fama, la ricchezza, la nazione e la TV. Fa legge a tuo favore, utilizzami il tuo potere, nel nome del Signore oppure in quello del dovere. Questa è l'Italia e dimmi chi ha il potere. Tira una brutta aria, non ve ne siete accorti? Tell me what's the power, non ce la danno a bere se mafia, state chiesa, restano gli unici assorti. Questa è l'Italia e dimmi chi ha il potere. Tira una brutta aria, qui siamo ai ferri corti. Tell me what's the power, 22° quartiere, mafia, state chiesa, restano gli unici assorti. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione. Ogni ruolo di potere è rivestito da un politico. Controllano le masse messe lì solite in bilico, sopra affari sporchi e sotto i loro tacchi. Sommessi alle leggi, reggimenti e tanti pacchi. Il ministro come tanti vuole fare una riforma, cambiare la costituzione e dalle nuova forma. Fa ciò che vuole perché vive nel potere, e veste con le vesti di chi adesso può godere. Comprandosi gli appalti e gestendo l'economia, rubando posti a volti sconvolti da carestia, regalandoli a nipoti oppure a chi si vende i voti, per simboli vuoti ma pieni di ipocrisia. Qui la gente è stanca anche se il lavoro manca, il politico guadagna anche se fallisce la banca. È razionale che controllano il giornale, la tua tele, il tuo rivale, quasi come un dittatore. Qui è normale l'industriale, il presidente del consiglio, come Silvio ogni suo figlio guadagna col suo potere. Ormai lo so, ci arrestano per una canna, mentre che sniffano sui loro fogli di condanna. Io non ci sto, il mio potere è la parola e non il nome di un sinistro ministro come Scajola. Per 2000 anni la Chiesa ha riversato oppressione e atrocità sul genere umano, ha distrutto sia passioni che idee. Predica oracoli dal pulpito nella contrada, riverendo al cardinale che ora acclama. Il sesso è una follia, contro l'eutanasia, ma tra i conventi e lo sa si addentra la pedofilia. Dalla benedizione alla condanna, per chi si fa una canna, mentre sanno il Vaticano che santo proclama un nuovo idolo e martire cristiano. E il nuovo spazio ora si apre sopra il calendario, contro la povertà si schiera per non rinuncia al calice d'argento alla messa con denuncia, mentre pronuncia dal balcone l'omelia domenicale adornato d'oro. Il nostro cardinale prediga bene contro il male, ma quel male non combatte. Dentro la chiesa tra le arringhe sta in disparte, in maggior parte comandati dal potere ecclesiale, imponendo le parole da ascoltare. Adesso dici cosa vuoi di più? La fama, la ricchezza, la nazione e la TV. Fa legge a tuo favore, utilizzami il tuo potere, nel nome del Signore oppure in quello del dovere. Adesso dici cosa vuoi di più? La fama, la ricchezza, la nazione e la TV. Fa legge a tuo favore, utilizzami il tuo potere, nel nome del Signore oppure in quello del dovere.